i rock di B-Radio. Bene, bene, gli Animals sono sempre gli Animals, anche i Delfini sono sempre i Delfini, però complimenti, pezzo degli Animals di Eric Barto, riveduto e corretto da Sergio Bardotti e da Franco Capovilla. Devo dire, questo brano è stato rissato anche dei Camaleonti col titolo Io lavoro, con la grande voce di Ricky Maiocchi. Esatto. Questo non di verità, anche se noi siamo andati in classifica a questo brano che aveva come retro Il mio dolore, testo mio, pur se firmato da Don Bacchi, ecco, voglio chiarire anche questo. Giusto. Mentre Franco si prepara, un'ultima domanda a Franco, all'altro Franco. Il locale dove suonavate di più a Padova all'epoca, qual era? La Capannina di Assego? A Padova c'è stata la Capannina di Assego. Che era il almeno posto clou, era il pipe, il pipe padovano. Sì, per quanto riguarda il finish, sì, sì. Bene, adesso Franco Serena ci presenta qualcosa. Franco, cosa ci presenti assieme ai Beat Shop, chiaramente? Primo 45 giri dei Ranger Sound, che stasera abbiamo trascurato per i ragazzi dei Capelli Verdi, ma in realtà la storia dei Capelli Verdi inizia come Ranger Sound. E questo è il primo 45 giri, che poi partecipò anche a Bandiera Gialla nel 66. E dato che prima tu ci hai fatto una domanda se eravamo trasgressivi. Sì, certo. Ecco, la parte B di questo 45 è molto trasgressivo. Un pezzo molto trasgressivo. Molto bene, adesso. Ok. Suonano anche Lele e chiaramente Franco.